punto e a capo. Una settimana di attualità di Gigi Donelli. La manovra che abbiamo appena varato fa salva la scuola, l'università e la ricerca. Non ci sono tagli in questo settore. Credo che anche questa sia una scelta fondamentale. Detto questo, l'Italia ha anche il terzo debito pubblico del mondo e il punto fondamentale è che noi abbiamo amplissimi margini per migliorare l'investimento nell'ambito della scuola. Cioè, io quello che contesto non è solo la quantità di risorse, ma la modalità con cui sono state spese queste risorse nel tempo. Buon anno scolastico a tutti, cari ascoltatori. Benvenuti al nostro appuntamento del sabato, la scuola italiana e la manovra. Dunque, secondo il ministro della pubblica istruzione, Maria Stella Gelmini, qualcosa è cambiato in questi giorni di passaggio, insomma, il rientro a scuola chiude definitivamente anche la memoria delle vacanze. Ogni anno scolastico è una storia a sé, è un cammino lungo. I nostri figli, tra l'altro, affrontano, si misurano con opportunità, soddisfazione, ma naturalmente anche con gli insuccessi. Un tema che di questi tempi è particolarmente importante. Allora, cambiando un po' la solita scaletta delle nostre hard news, ci arriveremo tra un momento, partiamo proprio da qualche riflessione che Nicoletta Carbone questa settimana ha fatto, era giovedì, a Essere Benessere, con il professor Alberto Pellai, che è medico ricercatore all'Università di Milano e psicoterapeuta. Nessun bambino, nessun ragazzo nasce con la capacità automatica di autogestirsi e di auto-organizzarsi, per cui quello che viene chiesto a un genitore è la capacità di monitorare la situazione e di prevedere qual è l'autonomia conquistabile dal figlio. In prima e seconda elementare la sfida è soprattutto aiutarli a gestirsi e organizzarsi negli spazi e nei materiali, preparare la cartella, lo zaino e in qualche modo darsi un tempo realistico e concreto per fare i compiti. Dalla terza alla quinta i bambini devono imparare a studiare, cioè hanno le lezioni e non c'è più solo il compito da fare sul quaderno, bisogna imparare a leggere, ripetere, memorizzare e poi elaborare informazioni, e su questo di nuovo in fase iniziale l'adulto può essere un aiuto significativo, ma poi deve proprio far sì che il figlio sia capace di fare da solo per andare alle medie. Insomma, una spalla, ecco. E alle medie la grossa sfida è che ci sono tantissime materie, compiti e lezioni molto differenti ogni giorno, e quindi le due sfide della scuola elementare, imparare a organizzarsi e gestirsi e poi imparare a entrare in apprendimenti sempre più complessi, si uniscono e di nuovo in prima media è importante sostenere, monitorare un po' la situazione del figlio, ma per poi lasciarlo andare da solo. Eccoci qua, dunque, ancora davvero un buon anno di scuola agli studenti ovviamente, ma in qualche modo soprattutto ai genitori. Punto e a capo. Che l'Italia va piccola hanno capito tutti, perciò bisogna preparare qualcosa di alternativo, la Padania. Firmato Umberto Bossi, che ieri torna alle invocazioni di sapore secessionista durante uno scambio con alcuni sostenitori, manda messaggi e forse sono gli ultimi. A Cuneo tutto questo in vista della manifestazione annuale alle sorgenti del Po. Intanto una vera e propria bomba editoriale, Manuela Marrone, signora Bossi, finisce nel mirino di Panorama, settimanale edito da Mondadori, dunque famiglia Berlusconi. Viene definita la dittatrice della Padania, un'abile burattinaia, vera e propria sacerdotessa di quel cerchio magico in cui solo una parte dei leghisti più vicini a Bossi è ammesso. Insomma, una bomba per i rapporti già difficili tra le due gambe dell'esecutivo, da cui giovedì sera il premier prende le distanze e dice: sono lontanissimo dal contenuto dell'articolo e dall'intenzionalità ostile che da esso emerge nei confronti di ciò che riguarda la famiglia di Bossi e la stessa Lega Nord. Questo è il tenore della settimana, mentre ci avviciniamo alla conclusione di 7 giorni in cui il premier è stato protagonista sia sul fronte delle inchieste di Bari e Napoli, dove Berlusconi viene invitato a testimoniare come parte lesa, sia sul fronte milanese Unipol per la pubblicazione sul giornale di famiglia della conversazione Fassino-consorte, la famosa "Abbiamo una banca". Quello quegli audio era un regalo per Silvio Berlusconi in vista delle elezioni. Lui l'ascoltò, se ne compì acqua e ringraziò, e solo dopo quell'intercettazione fu pubblicata sul quotidiano di famiglia. Mette in fila tutti i passaggi il GIP e, contro il parere della procura, ordina la richiesta di rinvio a giudizio per il premier per la vicenda dell'intercettazione tra Fassino e consorte nell'inchiesta Unipol finita sul Giornale. Concorso in rivelazione di segreto d'ufficio, l'imputazione coatta indicata dal giudice Donadeo, che considera il premier l'unico interessato a che finisse in prima pagina quella frase pronunciata dall'allora segretario dei DS: abbiamo una banca. Quando alla vigilia di Natale del 2005 il nastro fu portato ad Arcore, la reazione non fu di disapprovazione, ma, scrive il GIP, di compiacimento e riconoscenza. A trafugare e poi consegnare l'intercettazione mai trascritta, Roberto Raffaelli e Fabrizio Favata, titolari di società di intercettazioni che puntavano ad avere risarcimenti, come lo stesso Favata andò a ricordare allo studio Ghedini, registrando com'è agli atti. Il 24 dicembre, quando abbiamo consegnato al premier, ha pensato di pubblicarla sul suo quotidiano. Per quella pubblicazione Fassino è stato già risarcito. Raffaella Calandra, Radio 24, Sole 24 Ore. Pensate, sono oltre 100.000 le conversazioni telefoniche ambientali effettuate fino all'estate del 2009 nell'ambito dell'inchiesta che riguarda Giampaolo Tarantini e che, come ormai sappiamo, ha portato all'apertura di vari filoni di indagini, tra i quali quello riguardante l'Escor. La conferma, anzi la puntualizzazione direi, arriva in una nota dalla procura di Bari in concomitanza con l'avviso di conclusione delle indagini notificato ieri mattina ad altre 7 persone oltre che allo stesso Tarantini. In seguito al fermo dell'ex imprenditore barese eseguito il 18 settembre 2009 era stata disposta, ricorda la procura, la rielaborazione degli atti di indagine, l'effettuazione dei doverosi riscontri sulle dichiarazioni di Tarantini allo scopo di individuare le possibili notizie di reato. Ecco, un altro filone invece è quello che riguarda Napoli, è quello che riguarda il presunto ricatto ai danni del premier. Questa settimana di fatto è iniziato con l'attesa, era previsto per martedì appunto, di Silvio Berlusconi a Napoli. Silvio Berlusconi a Napoli non c'è andato. Martedì mattina il procuratore Gian Domenico Lepore era invece nostro ospite qui a Radio 24. Sentiamolo. No, non credo che stia fuggendo, comunque non si è presentato. Ha adotto un legittimo impedimento di andare all'estero per ragioni di ufficio, scusi. Comunque non l'è saltato l'incontro e cercheremo di ripeterlo nei prossimi giorni. Senta, però i giornali dicono che oggi gli avvocati del premier depositeranno un memoriale da parte... Ma più che un memoriale, perché in genere non è una memoria difensiva o quantomeno delle dichiarazioni, ma non un memoriale. Una memoria difensiva. Memoria difensiva, ma... è molto più giusto. Questo basta secondo lei? Cioè basta per dire non c'è bisogno di un faccia a faccia? Lì spiego tutta la vicenda? No, perché in un certo qual modo, prima del fatto che bisogna leggere cosa ci sarà scritto in questa memoria difensiva e quindi tenerne conto ai fini processuali. Come dichiarazioni della parte lesa in genere, in un processo soprattutto di estorsione, deve essere sentita la parte lesa, in questo caso in particolare, perché abbiamo quasi una cosa assurda, l'accusa, cioè noi abbiamo elementi per ritenere che ci sia un'estorsione e la vittima nega l'estorsione, che naturalmente dobbiamo sapere esattamente come sono andate le cose e quali sono i particolari. Ma non basta, appunto la memoria difensiva, voglio dire. Sarebbe una cosa un po' unilaterale, perché ecco perché bisogna esaminare e valutare, perché ci sono anche delle domande che dobbiamo dei fatti specifici che bisogna contestare. Cioè lei dice lì ci sarebbe e c'è la versione del premier senza le controdomande. Dell'accusa per fare chiarezza, ma più che altro per fare proprio chiarezza sulla vicenda, non perché uno ha qualche, così come si sente dire, ha un senso di persecuzione nei confronti di qualche persona. Allo stato attuale Berlusconi non si presenta ai PM di Napoli, così parla e dice l'avvocato Piero Longo, uno dei difensori del Premier, che così chiude la porta alla richiesta dei magistrati napoletani di sentire il Presidente del Consiglio, che lo ricordo è chiamato come testimone nel procedimento per un presunto ricatto ai suoi danni. Martedì dunque il Premier non si presenta, a fine settimana arriva invece questa nota che vi ho letto, ma noi ripartiamo invece proprio dal secondo giorno della nostra settimana. Berlusconi è dunque a Bruxelles, il punto di Sergio Nava. Silvio Berlusconi porta al cuore dell'Europa l'attacco contro l'opposizione, mentre il centro-sinistra dell'Europarlamento lo accusa di usare Bruxelles e Strasburgo per fuggire lontano dalle inchieste giudiziarie. Si è concluso così un viaggio che nelle intenzioni avrebbe dovuto parlare soprattutto di manovra e conti pubblici. L'attacco Berlusconi lo riserva subito in occasione dell'incontro con il presidente europeo Fanon Poi. È chiara l'intenzione di rovinare l'immagine del presidente del Consiglio, ma così facendo invece stanno, a mio parere, rovinando l'immagine del paese. Berlusconi si dice pure certo che il voto sulla manovra costituirà un segnale importante, punta all'inserimento del vincolo sui conti pubblici in ordine nella Costituzione e si mostra convinto di raggiungere nel 2013 il pareggio di bilancio, poi promette nuove misure per fisco e crescita prima di chiedere a Bruxelles di indicare l'aumento dell'età pensionabile. Da parte sua, Fanon Poi definisce ambizioso il pacchetto italiano e concorda con Berlusconi sulla necessità di una maggiore governance europea. A metà pomeriggio Berlusconi arriva a Strasburgo per incontrare il presidente della Commissione Giuseppe Barroso, il quale dà l'ok alle misure italiane definendole un buon passo per rimuovere gli ostacoli strutturali che impediscono la crescita, tuttavia ricorda vanno attuate. Infine la visita di Berlusconi al presidente dell'emiciclo Jerzy Buzek. Napoli con le sue inchieste resta lontana, oltre 1200 chilometri. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Questo accadeva dunque martedì, ma intanto la settimana dell'euro invece va avanti tra le note difficoltà, anche se dopo giovedì prende corpo una schiarita a seguito della decisione delle banche centrali di garantire liquidità a sostegno del sistema finanziario della zona euro. Effetto che non ha mancato di far sentire i suoi effetti benefici sulle piazze asiatiche, che nella giornata di ieri hanno registrato tutti i dati positivi. Tokyo ha chiuso a più 2,25, Seoul anche meglio, Bangkok positiva, eccetera eccetera. Attenti però, arriva subito la doccia, se non ghiacciata non calda. Inutile illudersi, dicono gli analisti, il rimbalzo è temporaneo e di breve termine. L'attenzione è ora puntata sull'incontro in agenda proprio oggi tra il segretario del Tesoro americano Timothy Geithner e i suoi omologhi dell'Unione Europea. Questo per coordinare gli sforzi, impedire che la crisi del debito faccia deragliare la ripresa globale. Intanto l'euro scivola sotto la soglia dei 1,38 contro il dollaro sulla scia delle dichiarazioni del ministro finlandese Jutta Urpilainen, secondo cui non è ancora stato trovato il punto comune, l'accordo dunque sulle garanzie che la Finlandia e altri paesi pretendono e chiedono alla Grecia in cambio di nuovi prestiti. Prestiti dunque tra nazioni per sostenere il debito. E su questo noi torniamo a mercoledì, quando ospite di Sebastiano Barisone a Focus Economia è arrivato il professor Romano Prodi, l'ex primo ministro, che come lui stesso ha raccontato ora è prima di tutto professore, si può anche dire esploratore dei rapporti euro-cinesi, era appunto a Shanghai per i suoi impegni accademici, mentre Financial Times faceva circolare la notizia di un invito italiano alla Cina a sostegno del debito di Roma. Sentiamolo. Senta Presidente, che impressione ha ricevuto? Sono preoccupati i cinesi della situazione del debito? No, la preoccupazione generale sulla tenuta dell'euro c'è, ovviamente poi si divide le preoccupazioni per i singoli paesi e la domanda che tutti fanno è: l'euro resisterà o no? Questa è la domanda generale, non è diversa in Cina da quella che è in questo momento negli Stati Uniti, insomma. Evidentemente tutti si chiedono se l'Europa passerà questa tempesta, insomma. Il mio parere è che la passerà, però certamente il dibattito sull'Europa è vivo, lo devo dire che c'è abbastanza la posizione che lei ha riferito prima in trasmissione da parte del governo tedesco, c'è anche in Cina, cioè guarda l'Italia perché riflette il problema dell'intera Europa. Visto che lei è un profondo conoscitore della Cina, andammo, seguimmo anche noi quando era Presidente del Consiglio la missione confindustriale al tempo c'era il presidente Montezemolo in Cina, una missione molto articolata. Secondo lei il motivo per cui noi siamo così deboli negli investimenti cinesi verso la Cina e anche, se vogliamo, dalla Cina verso l'Italia è perché c'è stato un errore di valutazione nel passato anche delle nostre imprese o perché abbiamo giustamente preferito concentrarci su mercati a noi più vicini e conosciuti, l'Est Europa, i Balcani, il Nord Mediterraneo? Ma c'è una ragione di provincialismo tradizionale, ma la ragione vera è che abbiamo perduto le nostre grandi imprese. Voglio dire, per essere Cina bisogna avere una dimensione perlomeno di alcune centinaia di milioni di euro di fatturato, a meno che uno non faccia qui qualche piccolo pezzo, abbia decentrato qualche pezzo di produzione, che poi oggi non si decentra più in Cina perché i costi stanno crescendo, ma si decentra in altri paesi. Ma per essere attivi e per il mercato cinese e per esportare bisogna avere una dimensione che purtroppo poche imprese italiane hanno. Questo è un problema serissimo. La globalizzazione non si affronta con le minime imprese, piccolo appello, ma fino a un certo punto ce la siamo raccontata un po' troppo quella del piccolo e bello. Nemmeno 24 ore più tardi la Cina si esprime attraverso il suo primo ministro sulla questione del debito. Lo fa da Lian. In occasione dell'Economic World Forum, Dalian è una bella, modernissima città della provincia di Liaoning, ma il messaggio è piuttosto esplicito. I paesi europei, dice, dovrebbero soprattutto mettere ordine in casa propria prima di chiedere alla Cina di intervenire per comprare il loro debito. Questo è dunque il messaggio firmato Wen Jiabao, primo ministro della Repubblica Popolare Cinese. Punto e a capo. Naturalmente. L'engagement aux côtés du peuple libyen n'est pas terminé. Tant que la paix sera menacée, la France restera a vos côtés. Par ailleurs, Nicolas Sarkozy, il capo del CNT Mustafa Abdeljalil, il suo premier, il ministro Mahmoud Jibril e David Cameron, il primo ministro britannico. Questa è la foto, lo scatto che accompagna la voce, peraltro, che sentite appunto del presidente francese. È accaduto giovedì mattina a Tripoli, dove i leader di Francia e Regno Unito sono arrivati per segnare e in qualche modo sottolineare la chiusura dell'operazione militare che appunto la Francia ha fortissimamente voluto, il Regno Unito ha sostenuto. È vero che nel frattempo, come dire, il paese non è pacificato, che la caccia a Gheddafi non è conclusa, ma intanto dunque la situazione è abbastanza solida perché un presidente, un premier britannico se sentano di poter andare, ecco, a Tripoli. Non c'è alcun calcolo, ha raccontato tra l'altro Sarkozy, dice, dietro l'aiuto dato alla Francia, alla Libia. L'abbiamo fatto perché era giusto. Questo naturalmente rispondendo alle tante questioni sugli interessi legati a questa operazione militare. Insomma, non per il petrolio, ma perché era giusto farlo. E il capo dell'Eliseo ha poi aggiunto che l'impegno della NATO non è terminato e che c'è un lavoro da finire. Allora, su questa visita abbiamo sentito Arturo Varvelli, ricercatore dell'ISPI, esperto di relazioni italo-libiche. Se guardiamo il punto della situazione, sembra che Cameron e Sarkozy vogliano evidenziare che i vincitori sono loro e lo vogliono fare in una maniera anche piuttosto evidente, perché un viaggio in questo momento in una situazione in Libia che non è per nulla pacificata, perché i realisti di Gheddafi sono presenti almeno in tre città, c'è Bani Walid, Sirte e Seba nel sud, ma tutta la situazione del sud del Fezzan è ancora molto, diciamo, magmatica, fluida. Non sappiamo ad esempio la posizione dei Tuareg, il sud nel Fezzan, se si è sollevato contro Gheddafi o no. Abbiamo una situazione veramente complessa, quindi andare adesso è anche una sorta di rischio, però serve proprio per dare un impulso in direzione di una leadership anglo-francese di tutta questa primavera araba. Io penso che sia più ci siano più motivazioni politiche che economiche e penso che Sarkozy e Cameron vogliano proprio evidenziare questo impulso politico. Relazioni italo-libiche, appunto. E l'Italia in tutto questo? Sentiamo Alberto Negri. No, noi a Tripoli non ci siamo. Nella capitale libica sfilano i vincitori della guerra, il presidente francese Sarkozy e il premier britannico Cameron. Oggi arriva anche il turco Erdogan. Abbiamo spedito in Libia un ottimo ambasciatore, ma noi italiani, intesi come governo e uomini politici, non ci siamo. Tanto valeva non partecipare neppure ai bombardamenti del nostro antico partner Gheddafi e magari comportarsi come la Germania, dichiarando una baldanzosa neutralità. Ma siamo fatti così. Non abbiamo mai cominciato e finito un conflitto con gli stessi alleati. Deve essere nei cromosomi della nazione di cui abbiamo appena festeggiato in sordina i 150 anni. Ma senza nozione non siamo neppure un popolo e non abbiamo neanche uno Stato degno di questo nome. Non abbiamo, per la verità, neppure un governo presentabile sulla ribalta internazionale, lo sappiamo benissimo. Anche per questo non siamo a Tripoli con gli altri, con i vincitori. Abbiamo perso la quarta sponda, può essere un brutto colpo per le imprese, ma forse è un bene. Solo toccando il fondo l'Italia torna a galleggiare e anche questo è nei cromosomi della nazione. Un'altra notizia in area mediterranea, qui siamo davvero nell'estremo angolo sud-orientale del Mediterraneo, riguarda i rapporti tra Israele e la Turchia, rapporti che sono stati molto buoni per lungo tempo, ma che sono appunto precipitati invece negli ultimi mesi. Turchia e Israele sono nel pieno di una crisi diplomatica, con annessa mobilitazione turca di navi da guerra per una posizione nazionalista turca legata alle mancate scuse per l'uccisione di suoi attivisti filo-palestinesi nell'arrembaggio israeliano dell'anno scorso, quello alla flottiglia della navi Marmara, della Mavi Marmara, la nave partita proprio da Istanbul con la compiacenza di fatto delle autorità locali. Ankara dunque chiede la revoca del blocco israeliano contro la striscia palestinese di Gaza, governata dal movimento di Hamas, che Israele considera terrorista e filo iraniano. Punto e a capo. Un'associazione di vittime e di abusi sessuali e di atti di pedofilia da parte dei sacerdoti, lo SNAP, ha deciso di citare il Vaticano, in giudizio davanti alla Corte dell'Aia per aver coperto questi reati. L'organizzazione, che ha presentato una denuncia alla Corte Penale Internazionale per crimini contro l'umanità, denuncia appunto l'atteggiamento passivo da parte della Chiesa cattolica e spiega di avere deciso questo storico passo per proteggere tutti i bambini innocenti, gli adulti vulnerabili. I dirigenti dello SNAP, assistiti dagli avvocati di una ONG americana, il Center for Constitutional Rights, hanno presentato una richiesta di dichiarazione di competenza giurisdizionale presso la Corte. Accusano di fatto il Vaticano di aver tollerato, di aver coperto sistematicamente e largamente stupri e crimini sessuali contro tutti i bambini del mondo. La documentazione, peraltro, è ricca di 10.000 pagine con l'esposizione di vari casi da parte di sacerdoti. Sentiamo il servizio di Paolo Panceri. Incriminate il Papa per gli atti di pedofilia compiuti dai sacerdoti. È quanto chiede alla Corte Penale Internazionale dell'AIA un gruppo di associazioni statunitensi di vittime dei preti pedofili. In un ricorso accusano Benedetto XVI, il segretario di Stato Tarciso Bertone, il suo predecessore Angelo Sodano e il prefetto della Congregazione della Dottrina della Fede, William Levada, di crimini contro l'umanità per la copertura dei reati commessi da prelati contro i minori. L'associazione spiega di aver deciso questo storico passo per proteggere tutti i bambini innocenti e gli adulti vulnerabili. Il Vaticano non ha commentato questa decisione, ma quale impatto può avere questa mossa nel percorso antipedofilia della Chiesa? Sentiamo lo psicoterapeuta Camillo Valgimigli. Piano politico che la cosa probabilmente può avere una certa risposta. Se questa è una mossa per cercare di pagare, come è successo in America, i danni per quello che è avvenuto, allora può andare anche bene. Bisogna andare a vedere se la Chiesa in questi gruppi di lavoro che sta facendo trova delle alternative. Tutto questo mentre è al lavoro la commissione di esperti promossa dal Vaticano per elaborare le linee guida antipedofilia entro maggio 2012. Inoltre, dal 6 al 9 febbraio dell'anno prossimo si terrà a Roma un simposio scientifico promosso dall'Università Gregoriana che riunirà vertici vaticani, vescovi, superiori religiosi ed esperti da tutto il mondo. Paolo Panceri, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E proprio su questo tema ricordo che a maggio la Congregazione per la Dottrina della Fede ha pubblicato un documento che invita i vescovi ad elaborare le linee guida antiabusi entro il maggio 2012 e a farle pervenire alla congregazione. Punto e a capo. La dottoressa della CTU che ci ha seguiti, a un certo punto del colloquio con lei ha detto: io non avrei mai consentito una maternità alla vostra età. Questo non è scritto da nessuna parte, poi l'ha riferito. Quindi questo è un gravissimo pregiudizio nei nostri confronti. E ora una storia che ci è stata raccontata ieri dal quotidiano torinese La Stampa, una storia appunto che si svolge nel capoluogo piemontese e che ha degli elementi davvero sorprendenti, anche inquietanti. Il Tribunale dei Minori vuole dare in adozione la figlia di una coppia definita anziana, ma sentiamo il servizio. Le storie non sono tutte uguali e infatti la storia di Gabriella e Luigi non sta andando come quella di altri genitori che hanno scelto di avere un figlio nonostante l'età fosse più vicina a quella di un nonno e una nonna piuttosto che a quella di una mamma e un papà. Convenzioni sociali, si potrebbe dire, a maggior ragione oggi che a 50 anni si è nel pieno della vita. Eppure il Tribunale di Torino, lo scorso anno, ha deciso di dare in affidamento la bimba di questa coppia, lui 70 anni, lei 58, che oggi ha 16 mesi e che oggi il Tribunale vuole dichiarare adottabile. Tante le motivazioni e un fatto scatenante. L'età avanzata, dicono i giudici, è un elemento, ma non decisivo. I due però non hanno anteposto l'interesse della bimba ad avere genitori in salute che fossero in grado di sostenerla nella sua crescita. E poi avevano fatto per due volte domanda di adozione, respinte entrambe. Ma anche questo non è stato decisivo. Il fatto risale a molti mesi fa. La bimba era stata lasciata in macchina da sola. Per pochi minuti, sostiene il padre, stavo portando a casa la spesa e non l'ho mai persa di vista, ha detto. Per oltre 40 minuti, dicono i vicini, che ricordano il pianto della piccola. Basta far dichiarare a un tribunale che questi non sono bravi genitori? Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Sono sempre casi estremamente difficili, delicati. Mi piace allora citare un passaggio firmato dall'avvocato Rimini, da Carlo Rimini. Dice: non possiamo leggere gli atti della causa, leggiamo solo la sentenza che, essendo pronunciata in nome del popolo italiano, è pubblica. Punto e a capo. Il graffio di Dario Ceccarelli. Berlusconi dice che è tranquillo. Molto tranquillo, un po' come Gasperini sulla panchina dell'Inter. Eccoci qua, insomma, la politica e il pallone in questa settimana vista dal nostro graffiatore Dario Ceccarelli. Carlo Genta, ben arrivato. Ciao Gigi, buongiorno a tutti. Insomma, qui si spara sull'Inter, lo voglio dire subito e... Pensavo dicessi sulla Croce Rossa, che è un po' la stessa cosa. Ecco, appunto, e tu continui, ma infatti io me l'aspettavo. In fondo è giusto partire da qui questa settimana. Beh sì, insomma, l'Inter è già uscita male dalla Supercoppa italiana, ma questa è storia vecchia, come ha detto lo stesso Moratti. Il discorso è che non si vedono progressi. Perché poi ha debuttato a Palermo, appunto, prendendone 4. E quindi ha cambiato modulo. L'altra sera c'era, a proposito di quattro gatti a San Siro, ed erano quasi tutti turchi per questa prima giornata di Champions League. L'avversario era il Trabzonspor, squadra turca non di primissima fascia, e questo rende ancora più difficile da ingoiare questo KO interno. Gasperini ha visto dei progressi, forse soltanto lui. Certamente è una squadra abbastanza confusa come il suo allenatore, che oggi si giocherà, che questa sera si giocherà tutto. Voltiamo pagina, parliamo invece di pagine decisamente più luminose. Un Napoli a dimensione europea, come dicono i colleghi sportivi. E direi... Mi viene voglia di dire che il Napoli ha buttato via un'occasione pazzesca l'altra poteva sera. Vincere. Poteva vincere a Manchester, d'altra parte... Ha preso attraverso un salvataggio sulla linea, poi è passato in vantaggio, ha beccato il gol su punizione, e francamente è un peccato, anche se molti napoletani mettono le mani avanti a partire da De Laurentiis e dicono meglio così, se no ci montiamo la testa. Però onestamente il Napoli in questo momento mi sembra la squadra in con migliore condizione fisica. Tra l'altro a costo di scatenare la scaramanzia dei napoletani, posso notare anche che da due stagioni il Napoli è una squadra che non ha grandi infortunati, quindi è una squadra che sta molto bene fisicamente, e secondo me è la favorita per una sfida con il Milan che chiuderà il programma, e alla quale il Milan si presenta con un sacco di assenze, da Ibrahimovic a Robinho, a Boateng, Gattuso, Flamini, l'elenco è lunghissimo. Insomma, una partenza anche di campionato anomalo, non solo perché la prima non si è giocata, ma perché alla terza mi stai già dicendo che abbiamo una partita per chi salva la panchina, una per chi è per la testa. Va bene, si parla di calcio, ci vuoi ricordare gli appuntamenti di oggi e domani? Sì, oggi a Tempo di Sport dalle 17 alle 18 come sempre e domani la consueta domenica zeppa di sport dalle 16.30 alle 19, dalle 4.30 alle 7 in diretta anche soprattutto per parlare con gli ascoltatori, che è la cosa più divertente della domenica poi. Grazie Carlo Genta. A voi. Punto e a capo. Ultima parte del nostro appuntamento del sabato, abbiamo parlato di diritti televisivi, ora parliamo di televisione. Con noi questa mattina Marta Cagnola, ciao Marta. Ciao Gigi, beh insomma si conclude una settimana molto vivace sotto questo punto di vista. Sì, su tutti i fronti, peraltro sabato scorso ci hai raccontato la conclusione invece del grande cinema, insomma ci hai fatto fare una vera e propria buffata di grande schermo, ora passiamo al piccolo schermo che peraltro, come dire, è quello che accompagna la quotidianità per la gran parte della popolazione. Allora, che cosa ci dobbiamo attendere dai palinsesti televisivi? Ormai siamo rientrati, oggi abbiamo iniziato la puntata parlando della settimana del ritorno a scuola e il ritorno in TV che cosa porta? Porta che intanto non ritornano tutti o perlomeno non si sa dove vadano, perché è il 17 settembre, in teoria dovremmo avere già tutto pronto, già tutti in onda, tutti i tasselli del puzzle pronti, e invece l'ultimo colpo di scena questa settimana con la grande bocciatura del CDA Rai al contratto per il programma di Serena Dandini. Ne abbiamo parlato molto su Radio 24, il problema che è una produzione esterna, in teoria questo non potrebbe essere possibile, bisognerebbe fare una gara d'appalto, ma insomma in pratica non si faceva, e allora Fandango, la produzione esterna, aveva deciso comunque di abbassare i costi della trasmissione tecnicamente, allora alla fine la Rai non avrebbe speso nulla di più che se fosse stata una produzione interna. Però alla fine questa bocciatura è arrivata. La produzione, Serena Dandini, l'opposizione dicono è stata tutta una mossa politica. Il CDA Rai dice tecnicamente se dobbiamo sfruttare le risorse interne dobbiamo farlo sempre, non a intermittenza. Insomma, effetti anche dei tempi di crisi e quindi di decisioni che poi possono essere più o meno motivate, ma che hanno sullo sfondo, no, la ragione dei tagli. Una nota, le produzioni esterne nella RAI sono sempre state la norma, cioè nella televisione italiana o in genere nell'editoria. Controverse, perché spesso si è parlato di appalti un po' favoriti dalla politica, però certo, si sa che insomma l'azienda di Stato ha come editore massimo il Parlamento, è difficile tenerla certo, lontana per dalla politica. Tutte cose che sappiamo in qualche modo, che abbiamo nel DNA, ma dici un po' allora che cosa ci dobbiamo aspettare invece dal piccolo schermo targato Rai? Visto che stiamo parlando della Rai, almeno una buona notizia ce l'abbiamo, si torna dopo tantissimi anni a parlare di musica, anzi a fare musica. Si è sempre detto che la musica non fa ascolti in televisione, o meglio li fa se c'è abbinato il talent show all'ultimo sangue con la sfida, la maglietta, quello che vince, quello che perde, la carta, l'X Factor. E invece questa volta c'è un programma musicale che parte domani sera, ovviamente alle 23.30, non possiamo sperare in un orario diverso, Rai 3. Il conduttore è molto particolare, è un pianista famosissimo, si chiama Stefano Bollani, la trasmissione si chiama Sostiene Bollani e lui l'ha raccontata così. L'idea di fare qualche cosa sulla musica che non fosse solamente, anzi che non andasse nella direzione delle lezioni di trigonometria che si vedono di notte, ma che fosse anche uno spettacolo in modo tale da attirare gente verso la cultura alta, ma anche in modo tale da divertire gli addetti ai lavori. Ecco, cioè è una via di mezzo difficile, perché noi non vogliamo né fare l'approfondimento dedicato a quei cinque che già si occupano di musica, né vogliamo fare il talent show oppure lo spettacolo inutile per far passare un'ora alle persone. Impegno televisivo, ma comunque tour e date e anche Orvieto che arriva. Arriva il disco Orvieto con Cicoria, collaborare con lui, dialogare con lui, non era neanche un sogno, non me lo aspettavo neanche, una bella sorpresa. Bollani, Cicoria, devo dire che mi piace molto, lo guarderò. Senti, ma sul fronte a proposito di talent e programmi insomma di grandi numeri? Arrivano i grandi talent show, quest'anno c'è la di sfida, non è più solo X Factor amici, perché sappiamo X Factor passa su Sky, la Rai contrattacca con Star Academy, la prossima settimana verranno presentate, quindi sapremo qualcosa di più. Già abbiamo avuto un'indiscrezione, a Star Academy ci sarà l'orchestra, quindi sarà un X Factor amplificato, ma la di sfida sarà pesante perché perché Simona Ventura è passata a Sky insieme a X Factor. C'è anche una novità che riguarda sempre Sky ed è un talent molto particolare. Per una volta non abbiamo preso dei talenti per fare un talent show, ma sono stati scovati in una scuola. Le telecamere sono andate in uno degli istituti più prestigiosi del mondo per quanto riguarda la moda, che è l'Istituto Marangoni di Milano. Hanno preso dei ragazzi, degli studenti, e li hanno semplicemente osservati. La coincidenza è che l'autrice di questa trasmissione è Tiziana Martinengo, che è l'autrice poi di Star Academy, quindi insomma tutto torna nella televisione italiana. Ma sentiamo proprio come Tiziana Martinengo ci ha raccontato di questo The Fashion School, che arriverà presto su Sky 1. L'idea è nata proprio in una visita dell'Istituto Marangoni. Affascinati, ne avevamo già sentito parlare da gente del mondo della moda. Qui sono nati personaggi come Moschino, Domenico Dolce, hanno fatto la scuola qui, per cui ne sapevamo. Arrivati e mi hanno detto: ma questo è un set televisivo, non dobbiamo fare niente se non, ma soprattutto i ragazzi, la cosa meravigliosa è che questi ragazzi hanno talento, voglia e a 20 anni le idee chiare. In un momento in cui si dice i giovani non sanno cosa vogliono fare, vogliono tutti fare i calciatori e le veline, sapere che c'è della gente che ha un obiettivo così e sono riusciti a realizzare già il sogno di poter frequentare la scuola e sapere già quello che faranno da grandi. Questo credo che sia meraviglioso. Grazie a Marta Cagnola, lo ricordo, l'ascoltate tutte le mattine dal lunedì al venerdì, GR Spettacoli alle 8:15. Noi con questo abbiamo chiuso. Non mi resta che ringraziare Fabio Cantadori questa mattina in regia, darvi appuntamento con Punto e a Capo sabato prossimo alla stessa ora, subito dopo il GR delle 9. Buon fine settimana a tutti.